Buongiorno Chiesa, ciao, che belli che siete, da qui siete ancora più belli. Come stiamo? Bene? Oh, bello, bellissimo. È bello rivederci ed è bello continuare questo bellissimo libro. Non so se voi avete una categoria di libri che vi piacciono della Bibbia. Io uno o due cronache, diciamo, anche no. Quanti con me siamo stancati dalle guerre, poi con tutto quello che sta accadendo, so, anche no, però con Ezechiele è uno dei miei libri preferiti. Quanti con me? È catastrofico, però è bellissimo. Ma devo dirvi che Filippesi ha salito la classifica, è vero? Quanti avevano già Filippesi come libro preferito? Ora, quanti si sono aggiunti nella top 3, giusto? Chi dice, è diventato uno dei miei tre libri preferiti della Bibbia, posso vedere? Beh, dai, devo dire che Filippesi sta conquistando un posto straordinario perché ci sarà l'occasione di spaziare su dettagli di vita, della vita pratica, che non avevo visto mai così tanto a fondo. Oggi parleremo di una cosa che mi sta estremamente a cuore, quindi sono contenta per la prima volta che il pastore mi abbia affidato un tema, perché in genere mi affida sempre temi difficili. Questa volta, finalmente, è proprio mio, lo sento mio, per cui staremo insieme 3, 4, 5 ore circa e poi rimarremo insieme per ascoltare la parte migliore di questo messaggio, che sarà il messaggio del pastore Pinuccio stasera, perché ho già spoilerato il foglio guida ed è bellissimo quello che dirà. Per cui stiamo insieme oggi, che dite? Vi vedo convinti, bene. Cominciamo benissimo subito insieme dal verso di riferimento. Andiamo, siamo su Filippesi 4, siamo verso la fine, ci siamo quasi. Tuttavia avete fatto bene a prendere parte alla mia afflizione. Fermiamoci un attimo qui, questa frase ovviamente fa parte di tutto il discorso che Paolo sta facendo ai Filippesi che abbiamo ascoltato la settimana scorsa, che si concludeva con ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo. Quindi quel tuttavia è da legare a quello che abbiamo ascoltato la settimana scorsa. Cioè Paolo sta dicendo, sentite ragazzi, io ho imparato a stare bene in ogni situazione in cui mi trovo, ho imparato ad avere fame e ad essere sazio, ad essere ricco e ad essere povero. Nonostante ciò, questo tuttavia dice, avete fatto bene a prendere parte. Quindi ancora una volta il libro di Filippesi è da parte di Paolo per lodare quello che hanno fatto i Filippesi. Ancora una volta Paolo, anche in materia di finanze, perché è di questo che stiamo parlando, anche in questo i Filippesi sono stati bravissimi, degni di essere lodati da un intero libro. Per cui ora andiamo avanti. Tuttavia avete fatto bene a prendere parte alla mia afflizione. Anche voi sapete, Filippesi, che quando cominciai a predicare il Vangelo, dopo aver lasciato la Macedonia, nessuna chiesa, diciamolo insieme, nessuna chiesa mi fece parte di nulla per quanto concerne il dare e l'avere. Diciamolo insieme, il dare e l'avere. Sono questi i punti su cui lavoreremo oggi. Se non voi soli, diciamolo insieme, voi soli. Ultima parte, poiché a Tessalonica mi avete mandato una prima e poi una seconda volta ciò che mi occorreva. Diciamolo insieme, ciò. Che bello, oggi prenderemo insieme questi quattro spunti. Prima di tutto, nessuna chiesa, il dare e l'avere, voi soli e ciò che mi occorreva. La lettera ai Filippesi, come sappiamo, nasce dal cuore di Paolo che vuole consolare e rassicurare i Filippesi che sta bene, che nonostante sia in catene sta bene, che la loro testimonianza è salda, che ringrazia Dio per tutto il loro carattere, per quello che ha visto fare e anche in particolar modo per come i Filippesi si sono presi cura di Paolo in ogni parte del suo ministero. Questo verso, questi due versi, ci parlano di un tema che pervade tutta la parola, che la troviamo dalla Genesi all'Apocalisse. Perché? Perché è una delle caratteristiche principali del carattere di Dio rivelato in Cristo Gesù, ed è la generosità. Infatti il titolo di oggi è La generosità in Cristo, sottotitolo Il DNA della generosità. Lavoreremo insieme nelle prossime 5 ore a smontare quattro miti specifici riguardo alla generosità. Perché? Abbiamo tanto parlato della generosità come Chiesa, almeno una volta l'anno come Chiesa prendiamo questo tema. Quando? Spesso nel tempo della raccolta miracolosa, di dono perché amo. Lì noi parliamo della generosità, quindi sono tanti anni che ormai parliamo della generosità. Ogni domenica la nostra Chiesa, e non è in tutte le chiese che funziona così, ma ogni domenica la nostra Chiesa spende un momento specifico per raccogliere le decime e l'offerta. Quando entriamo, troviamo delle buste per il sostegno degli operai che sono sul campo, in altre nazioni, per predicare Gesù. Quindi è una Chiesa, la nostra, che crede nella generosità, che vive la generosità e la vive in varie dimensioni. Andiamo quindi a chiederci cosa possiamo imparare di più, cosa c'è che non abbiamo ancora capito, come i filippesi possano ancora cambiare la nostra forma mentis rispetto alla generosità. Entriamo nello specifico. Prima cosa, nessuna chiesa. Paolo dice, ragazzi miei, nessuno ha pensato di sostenermi mentre predicavo il Vangelo. E vi voglio far vedere a chi si riferiva Paolo. Paolo ad un certo punto, dopo il concilio di Gerusalemme, in Atti 15, vediamo che comincia il suo secondo viaggio missionario. Abbiamo una cartina, penso. Guardate un attimo, ora è un po' sgranata, però venite con me. Da Gerusalemme Paolo fa tutte quelle tappe lì. Le vediamo? E va in Galazia, in Cilicia, poi appunto in Asia Minore, nella Misia. Quando sale troviamo Filippi, dopodiché abbiamo Anfipoli, Tessalonica, poi scende e va ai Corinti e dopo torna da Rodi e va di nuovo a Gerusalemme. Quello che ci sta dicendo Paolo è che fermato a Filippi, lo vedete sopra? Sì? Lui ha incontrato altre chiese prima di scendere nella Macedonia. E le altre chiese che ha incontrato sapevano che Paolo sarebbe sceso a Acaia, no? Giù. Eppure nessuna altra chiesa ha pensato di sostenere la predicazione del Vangelo di Paolo nel suo viaggio. Nessuna chiesa lo ha fatto. Nessun'altra chiesa, anche i tessalonicesi potevano farlo, anche i corinti potevano farlo, ma non l'hanno fatto. Solamente la chiesa di Filippi ha pensato bene di sostenere l'opera missionaria di Paolo. E questo noi lo troviamo in 2 Corinzi 11:9. Leggiamo cosa dice. Durante il mio soggiorno tra di voi, quindi in 2 Corinzi Paolo è appunto a Corinto, dice, durante il mio soggiorno tra di voi, sta facendo riferimento alla prima volta, quando mi trovai nel bisogno, non fui di peso a nessuno, perché i fratelli venuti dalla Macedonia, si riferisce ai filippesi, provvidero al mio bisogno e in ogni cosa mi sono astenuto e mi asterrò ancora dall'esservi di peso. Cioè Paolo è andato a Corinto, ha predicato, ha formato la chiesa, l'ha consolata, l'ha equipaggiata e mentre era lì, chi ha provveduto all'opera missionaria di Paolo? Hanno provveduto i filippesi a quest'opera missionaria. Quindi i filippesi hanno fatto in modo che Paolo fosse a Corinto, a Tessalonica e in tutte le altre chiese. Perché? Perché mandavano dei soldi una prima e una seconda volta. Gli hanno mandato cibo, gli hanno mandato finanze. Quindi non c'era nessun'altra chiesa che abbia pensato a lui. Ed è incredibile perché... Puoi rimettere Micaela? Allora facciamo un applauso a Micaela per piacere, perché è tornata alle 3 con una bambina, oggi era qui alle 9:15, sta servendo. Micaela, grazie per il tuo servizio, come tutti coloro che stanno servendo, che hanno fatto il viaggione stanotte, grazie veramente di cuore. Quello che succede, guardate un po', Paolo ha evangelizzato una parte, diciamo, dell'Asia Minore, molto vicina. Filippi era tra le città più grandi, una colonia romana, ma anche le altre città erano molto grandi e non erano molto distanti tra di loro. Cioè Filippi non è come Roma, ma la Tessalonica, Anfipoli sono vicine. Come mai le altre chiese, che pur condividevano una stessa cultura territoriale, geografica, la cultura mediterranea, noi siamo generosi per cultura, Noi non lasciamo andare qualcuno che non abbia un pranzo, no? Voi sapete che la domenica io mi vado invitando, trovo sempre qualcuno che mi ospiti a casa. Se viene qualcuno a casa nostra, sappiamo la nostra generosità, che non è solamente pugliese, soprattutto pugliese, ma è del mar Mediterraneo, anche nella cultura araba, nella cultura musulmana abbiamo questo. La generosità è culturale, no? Non siamo magari come, non so, l'Alaska. La generosità è nella nostra cultura territoriale. Poi magari scopriremo che gli eschimesi sono più generosi di noi, non lo so. Però quando Paolo dice nessuna chiesa, sta facendo riferimento a chiese che condividevano lo stesso background culturale. Cioè come erano medio orientali a Filippi, erano anche medio orientali a Tessalonica, eppure o a Corinto, eppure nessun'altra chiesa ha pensato di benedire generosamente Paolo. Che cosa ne traiamo da questo? Primo mito da sfatare sulla generosità. La generosità non è una questione culturale, o meglio, non ha a che fare con la cultura geografica a cui appartieni, ma ha a che fare con la cultura del regno a cui appartieni. E il regno di Dio è un regno contraddistinto da una cultura di generosità. Questo cosa vuol dire? Che quando le chiese devono sforzarsi e noi come chiesa dobbiamo, il nostro ruolo è quello di crescere alla statura di Cristo, di vivere il carattere di Cristo. Questo vuol dire che la chiesa pieno Vangelo di Modugno deve riflettere lo stesso carattere della chiesa nascosta in Cina. E non perché condivida i canti, perché magari i canti non saranno gli stessi che cantiamo, ci vestiamo in maniera differente, mangiamo cibi differenti, ma perché dobbiamo condividere, dobbiamo mettere in campo la stessa cultura che non ha a che fare dalla nostra provenienza geografica, ma che ha a che fare con la nostra provenienza soprannaturale. E nella cultura del regno si respira generosità. Quindi la generosità non ha a che fare con la cultura. Tu puoi essere generoso di natura, puoi essere generoso di famiglia, puoi essere generoso per educazione, ma questo tipo di generosità non è quello di cui si sta parlando qui. Questo è un tipo di generosità che è soprannaturale, lo vedremo oggi, che non appartiene alla cultura con cui sei stato cresciuto o che ti appartiene geograficamente, ma perché proviene da chi sei in Cristo. E la cultura di Cristo, noi la troviamo dalla Genesi all'Apocalisse, ma due versi per ricordarci com'è il carattere di Dio. Prima di tutto, il carattere di Dio è Giovanni 3,16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato. Che ha dato. L'amore di Dio è diventato forma, ha preso una forma che è quella del dare il suo unigenito figlio Cristo Gesù, affinché chiunque crede in lui non muoia ma abbia vita eterna. Il carattere di Dio è il carattere di un donatore generoso. Lui non ci dà solo tutto quello che c'è con lui, ma lui ci ha dato l'unica cosa di cui noi avevamo veramente bisogno, e cioè suo figlio Cristo Gesù, che non è l'ultima delle cose che lui aveva, ma era la cosa più preziosa che lui avesse. Il suo unico figlio, Cristo Gesù. Vediamo un altro verso, Filippesi 2, 5-6, l'abbiamo letto e studiato qualche domenica fa. E quindi quando viene da Dio questo carattere, noi lo vediamo in Cristo Gesù che lo trasferisce a tutti quanti noi. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. Com'è questo sentimento? Il quale, pur essendo in forma di servo, in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, e va avanti. Cosa ha fatto Gesù? Gesù si è dato. Non ha pensato, tengo per me, ma mi do. Quindi, mito da sfatare numero uno, la generosità non ha a che fare con la cultura dalla quale appartieni, ma ha a che fare con la cultura del regno. Ci piace? Siamo svegli? Andiamo al secondo punto, così facendo forse ce la facciamo a mangiare oggi anche. Dai, può essere. Secondo punto che abbiamo sottolineato è circa il dare e l'avere. Paolo ad un certo punto dice: nessuna chiesa mi fece parte di nulla per quanto concerne il dare e l'avere. Ho fatto una scoperta straordinaria studiando questo verso. è che far parte di nulla è tradotto in koinoneo, che è un verso che ci piace come chiesa, molto caro al nostro, è una parola che piace molto al nostro pastore. E guardiamo in Filippesi 1, 3, 5, dice: io ringrazio il mio Dio di tutto il ricordo che ho di voi e sempre in ogni mia preghiera per tutti voi prego con gioia a motivo della vostra partecipazione, koinonia, al Vangelo dal primo giorno fino ad ora. Questa parolina magica è veramente potente, perché abbiamo inteso forse fino ad ora che koinonia è il condividere, lo stare insieme. La parola koinonia o koinonea, il verbo, cioè, significa proprio prendere parte, fare una partnership, un'alleanza, combattere insieme per, condividere qualcosa, essere pronto a collaborare in qualcosa, ancora entrare in comunione, allearsi. Paolo sta dicendo ai Filippesi, sin dal primo capitolo, voi avete collaborato con me. Voi, sin dal primo momento, vi siete messi in partnership con me. E non sta parlando solamente Paolo, ti benedico, vuoi andare a Tessalonica? Bravo, preghiamo per te, imponiamo le mani, come hanno fatto le altre chiese. No, hanno detto, fin dove vuoi andare? E Paolo ha detto, ma vorrei, diciamo, se lo Spirito, perché poi fa ridere, perché Paolo alcune volte dice lo Spirito me l'ha permesso, lo Spirito me l'ha impedito, altre volte dice Satana me l'ha impedito, Satana me l'ha, mi ha bloccato. Paolo ad un certo punto, lui voleva evangelizzare tutto il Mediterraneo e oltre. Però dipendeva da dove lo Spirito Santo lo mandava. Come abbiamo visto nel suo secondo viaggio, lui scende verso il Mediterraneo da Rodi, poi ritorna a Gerusalemme. E sono circa 5.000 chilometri, penso siano tutto quanto. Potrei sbagliarmi, ma può essere che sia questo. Quindi ad un certo punto Paolo, io me lo immagino, che stesse con i filippesi, dice, beh Paolo, allora mo, dove vuoi andare? Dice, ma vorrei fare un giro in Asia Minore, scendere nel Mediterraneo e vedere dove lo Spirito Santo mi guida. Ah, beh, ti benediciamo. Bam. No, no. I filippesi dicono, tu vuoi fare così? Noi vogliamo venire con te. Noi vogliamo aiutarti a fare quello che il Signore ha messo nel cuore, nel tuo cuore di fare. Come? Vogliamo provvedere a te. Quindi Paolo dice, voi siete in partnership con me. Voi siete miei partner, cioè lo facciamo insieme. Io vado, ma tu vieni con me. Ed è straordinario questa coinonia, perché ancora una volta questa coinonia smolta un mito, perché la generosità non è una questione di quantità. La Chiesa di Filippi non ha detto, ma siccome siamo ricchissimi, ti diamo una parte, perché te la sei meritata. Cioè, hai fatto del bene, diciamo, ti paghiamo per quello che hai fatto, te lo meriti. No, no, la Chiesa di Filippi non ha pensato alla quantità, la Chiesa di Filippi ha pensato alla visione, ha condiviso la visione che Dio aveva dato a Paolo. E la generosità, Chiesa, ascoltatemi bene, non è mai una questione di quantità. Questo ce l'ha insegnato Gesù in varie occasioni, tra cui stimando quello che ha fatto una vedova con due spiccioli. Da lì noi impariamo un principio fondamentale o di contro con Anania e Saffira in Atti 4. E lì, no, un esempio è l'opposto. Noi impariamo questo principio che la generosità non ha a che fare con la quantità. La generosità ha a che fare con la visione che tu sposi. Se tu condividi una visione, tu per quella visione sei pronto a dare tutto. E non ti importa quanto costerà, non ti importa cosa succederà nella tua casa, se mangerai ancora o non mangerai ancora, ma la generosità che ci insegnano i filippesi è sposare una visione. I filippesi hanno pensato, Paolo vuole andare lì, il Vangelo arriverà nel Mediterraneo, io voglio essere parte di questo. Amen. Che bello, ci piace. Stai pensando che oggi te ne andrei a casa con meno soldi di quelli con cui sei entrati? Non ce l'avevi detto, Sara? Ma mi è venuto così, spontaneo. Terzo punto, ragazzi, mangeremo. Terzo punto, solo voi. Oh. Devo dire, ho letto questo verso con leggera invidia, Perché ho pensato, ma Signore, se tu potessi dire qualcosa della chiesa di Modugno, io vorrei che tu dicessi solo voi. No, bello, è vero? Bello, solo voi, chiesa Pieno Vangelo di Modugno, solo voi. E non solo voi. Ma no, ma Dio ha detto, tramite Paolo, solo voi. Che bello. Che bel DNA avevano questi qui. Ma se sono stati così tanto lodati, andiamo a vedere, ma chi erano sti filippesi per essere così tanto speciali? Cioè, come mai Dio, dopo 2000 anni, ci porta a ricordare la chiesa di Filippi con solo voi, esclusivi? Un complimento solo per te, della chiesa Pieno Vangelo. Io lo vorrei, Signore, ti prego, dacci questo. Lo so che diranno, avevi i pastori migliori del mondo, solo voi, lo so. Lo so, Signore, sapete che io giro molte chiese, sapete come apro ogni intervento, ormai lo sapete. La mia chiesa è la più bella di tutte. Io apro ogni mio intervento in questa maniera, la rubo da Paolo, solo voi, solo voi. Ma chi erano sti filippesi? Dove troviamo l'origine della chiesa in Filippi? La troviamo in Atti 16, ve lo leggo io al volo. Perciò salpando da Troas, in Atti sappiamo che è un po' un diario di bordo dei viaggi di Paolo dalla seconda metà in poi, perciò salpando da Troas, ehi Micaela, mi puoi rimettere la slide del viaggio così leggiamo insieme dove è andato Paolo, ecco se si legge bene. Salpando da Troas puntammo dritto su Samotracia e il giorno seguente su Neapolis e di là ci recammo a Filippi, che è colonia romana. È la città più importante, sto leggendo da Atti 16 verso 11, è la città più importante di quella regione della Macedonia, quindi aveva un posto strategico, ok? Restammo in quella città alcuni giorni, leggendo poi sembra che fossero, insomma, settimane. Il sabato andammo fuori dalla porta, lungo il fiume, dove pensavamo vi fosse un luogo di preghiera. E sedutici parlavamo alle donne là riunite. Quindi prima di tutto hanno cominciato ad evangelizzare a delle donne. La chiesa di Filippi nasce con la predicazione del Vangelo a delle donne. Una donna della città di Tiatiri, commerciante di porpora, di nome Lidia, che temeva Dio, stava ad ascoltare. Il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo. Dopo che fu battezzata con la sua famiglia, quindi donne, Lidia commerciante, tutta la famiglia di Lidia. Questo è come è cominciata la chiesa di Filippi, ok? Tutta la famiglia, mi sono perso, ci pregò dicendo, se avete giudicato che io sia fedele al Signore, entrate in casa mia e alloggiatevi. Generosità, cultura, ok? E ci costrinse ad accettare, doveva avere il suo bel caratterino. Mentre andavamo al luogo di preghiera, incontrammo una serva posseduta da uno spirito di divinazione. Sappiamo come va a finire, che questa serva continua a seguirli, lo spirito di divinazione importunava Paolo e la liberano. Per cui lei, che era un'indovina, fa arrabbiare i suoi servi, i suoi padroni, perché era schiava, perché non lo faceva più, non andava più in giro a parlare per voce di questo spirito. E cosa fanno i padroni? Vanno al pretorio, sto sintetizzando, vanno al pretorio e fanno mettere in carcere, e li fanno mettere in carcere. Paolo e Sila, verso 29. Ah, quello che succede lo sappiamo, che ad un certo punto c'è un terremoto, le sbarre si aprono, e Paolo e Sila sono liberi, ma in realtà il carceriere si preoccupa, perché dice, ma ammazzano. E invece che cosa succede? Chiesto un lume, balzò dentro, e tutto tremante si gettò ai piedi di Paolo e Sila, e poi li condusse fuori, e disse, Signore, che cosa devo fare per essere salvato? Ed è, quindi abbiamo Lidia, la sua famiglia, la schiava, il carceriere, la famiglia del carceriere, questa è come è nata la chiesa in Filippi. E ancora, e poi li fece salire in casa sua il carceriere, e apparecchiò loro la tavola, si rallegrava con tutta la famiglia perché aveva creduto in Dio. Allora, verso 40, Paolo e Sila, usciti dalla prigione, entrarono in casa di Lidia e, visti i fratelli, li confortarono e poi partirono. Molto probabilmente lì hanno ricevuto per la prima volta l'offerta da questa chiesa. Cosa avevano di speciale? Erano carcerieri, schiave, commercianti, famiglia, Cioè, non c'era un curriculum preciso per cui questa chiesa fosse ricchissima, potente, perché, terzo mito da sfatare, il curriculum non ha, la generosità non ha un curriculum preciso, perché non dipende da noi, ma riflette il DNA del nostro Padre, che è un Dio generoso. Quindi questo non dipende da te. Che cosa vuol dire? Sei avido o sei generoso? Sei tirchio, sei egocentrico o sei uno di manica larga? Non ci interessa. Questo non ha a che fare con chi noi siamo, con il nostro curriculum, su con quale conto bancario abbiamo, con quale carriera stiamo portando avanti. Questo ha a che fare con il DNA di Cristo Gesù che entra in noi. La generosità non ha a che fare con chi tu sei stato prima di incontrare Gesù, ma con chi sarai da quando incontri Gesù in poi. Ti piace questo? Per questo i miei due spiccioli valgono quanto i due spiccioli di qualcun altro, perché non sono fatti secondo quello che noi abbiamo, che possediamo, ma con l'attitudine con cui lo facciamo. Ti piace questo? Ultimo punto. Si mangia, sicuro. Ciò che mi occorreva. Paolo dice, rileggiamo un attimo insieme il verso. Perché anche a Tessalonica mi avete mandato una prima e poi una seconda volta ciò che mi occorreva. Che bello questo. Che bello. Oh, torniamo indietro. Solo voi mi avete mandato una volta, anzi due, quello che mi occorreva. Torniamo un attimo indietro. Paolo non aveva nulla, lo sappiamo, che era riconosciuto dal fatto che non chiedeva nulla alle chiese, che quando sono state, anzi dal Concilio di Gerusalemme c'è stata una richiesta di offerta, ce la ricordiamo, nella chiesa di Corinto, ma per quale motivo? Perché insieme tutti gli apostoli avevano deciso che si dovevano aiutare i credenti a Gerusalemme che erano in povertà. E quindi si andava nelle chiese, si raccoglieva un'offerta e si mandava poi a Gerusalemme. Era questo lo scopo del viaggio, prima di ogni altra cosa. Ma ovviamente mentre andava predicava. Quindi quali bisogni aveva Paolo? Non aveva nulla. Lo leggiamo che in altri momenti lui ha dovuto lavorare creandosi delle tende per sostenere se stesso e non essere di peso a nessuno. Quindi ciò che gli occorreva era tutto. Non aveva nulla, non aveva cibo, non aveva, immagino, vestiti, non aveva una tenda dove dormire, non aveva una casa dove stare, non aveva una famiglia, lo sappiamo. Eppure Paolo dice, mi avete mandato per ben due volte ciò che mi occorreva. E qui impariamo un altro principio della generosità. C'è una differenza enorme tra la generosità naturale e la generosità soprannaturale. Ho visto un video ultimamente su TikTok, ma Gesù mi ama comunque, lo sapete, scelgo quello che vedo, ok? Però ho visto questo video su TikTok di questi due fratellini, un genitore che fa questo test, mette davanti due piattini coperti, sono delle ciotole coperte, e ad un bambino mette due caramelle e all'altro bambino non mette nulla. Quindi i bambini alzano, no? Scoperchiano questo piattino e uno trova due caramelle e l'altro non trova nulla. E prontamente il bambino che ne ha due prende una caramella e la mette nel piattino di chi? Della sorellina che ne ha uno. Ieri mio figlio, io ho sempre due figli, no? Non diciamo mai i nomi per privacy, però ieri mio figlio, sempre quello delle altre storie, quindi si riscatta ogni tanto, ha fatto una cosa carinissima. Noi abbiamo questo problema con i mandarini, anzi per chi di voi produce mandarini potete generosamente donarli alla nostra famiglia, perché noi non so più quanti chili di mandarini mangiamo durante l'autunno e l'inverno. Abbiamo cominciato a prendere i primi 2 chili di mandarini, sono finiti, ieri era l'ultimo. E c'è sempre questo mio figlio che è un fruttariano, proprio mangia un sacco di frutta. Mio marito ha cominciato a sbucciare i mandarini. Mio figlio testardo, ovviamente, ha preso il mandarino e mentre noi ne mangiavamo 3, lui ne aveva aperto solamente uno. Così il papà ha preso, mentre apriva, prendeva metà del mandarino e glielo metteva vicino. Però lui aveva sempre questo mandarino che stava aprendo. E quando ha finito di aprirlo, era piuttosto difficile perché la buccia era sottile, no? Ha preso metà. Anzi no, l'ha preso tutto praticamente, ha dato metà a me e metà a Vito. E Vito gli ha detto, ma mangialo tu, non ti preoccupare, noi ne stiamo mangiando tanti, li abbiamo lasciati anche per te. No, no, mangiatelo voi. È bello, è mio figlio. assomiglia tutto a me. E qui... Vero amore? Vabbè, non sottilizziamo, diciamo così. Però, questa è generosità. Questo è un cuore generoso. Questa è una generosità naturale. La generosità naturale guarda quello che ha e ne fa parte con qualcun altro. Io ho un mandarino, lo divido a metà e te lo do. Io ho due caramelle, tu non ne hai, ne prendo una e te la do. Il primo sguardo della generosità naturale non è sull'altro, ma è su quello che ho io. Quindi se io ne ho due, te ne do uno. Se io ho un intero, lo divido a metà. Io, generosa naturalmente, guarderò a quello che ho. E con quello che ho, darò. Ci siamo? La generosità soprannaturale non guarda a me, guarda direttamente all'altro. Paolo dice: mi avete dato quello che mi occorreva, non quello che eravate capaci di dare, non quello che potevate dare. In altri momenti ha detto: avete dato di più di quello che potevate, ma qui ha detto quello che mi occorreva. Questa generosità, una generosità soprannaturale, non guarda a quello che ho, guarda a quello che serve all'altro e di conseguenza sceglie cosa dare. Lo voglio dire di nuovo, la generosità naturale ti fa guardare quello che hai e poi scegli quello che puoi dare. La generosità soprannaturale fa guardare a quello che serve all'altro e non si basa su quello che hai, ma si basa su quello che occorre all'altro. Ancora una volta questi filippesi ci danno un insegnamento straordinario. E quando viviamo questo tipo di generosità, questo è un tipo di generosità che non è mediato dalla legge, che non è motivato dal dovere. La legge nell'Antico Testamento obbligava a dover dare. A dover dare per il servizio del Tempio, a dover dare per il servizio dei Leviti, a dover dare, ricordiamoci, questa era parte della cultura del popolo di Israele. Ma i filippesi erano una colonia romana, questi non erano circoncisi per intenderci, questi erano, non erano parte del popolo di Dio, questi si sono aggiunti, no? Sono l'innesto. Non il ramo, ok? Quindi questo non era neanche parte della cultura religiosa, perché nell'Antico Testamento c'era la cultura del dare, si provvedeva alle vedove, agli orfani, ai poveri, agli stranieri, questa era parte della cultura ebraica. Quando Paolo qui ce l'insegna, sottolinea questa caratteristica, questo DNA dei filippesi, sta dicendo che questa è grazia, loro hanno ricevuto grazia e il loro dare è un dare di grazia, non è un dare motivato dalla legge. Il dare motivato dalla legge, ce lo ricordo, perché noi siamo fondamentalmente cattolici, proveniamo da una cultura cattolica. Cosa ci ha insegnato la cultura cattolica? Che bisogna dare per espiare, che bisogna dare per non sentirci in colpa, che bisogna dare per senso del dovere, per liberarci la coscienza. Noi diamo gli spiccioli perché vogliamo far parte di quello che... Ma questo non cambia, lo sappiamo, non cambia le condizioni. Invece questo tipo di dare è differente perché è mosso dalla grazia. Non è dovere, non è smetterla di sentirmi in colpa. Torniamo a noi, tra un po' passeranno i contenitori. Il contenitore, se lo vivi come senso del dovere, non ti porterà bene. Ehi, voglio essere chiara, quello che noi diamo nella legge o nella grazia, magari è la stessa cosa, ma quello che noi ne riceviamo in cambio è molto differente. Se io do per legge, io mi sentirò soddisfatta dal senso di colpa, mi sentirò solamente più povera di come sono arrivata. Se io do per generosità, per grazia, io darò perché voglio ringraziare, io darò perché voglio lodare Dio, io voglio dare perché ho ricevuto e quindi voglio dare largamente, perché sono benedetto e voglio benedire e me ne tornerò più povero di prima a casa, come nella legge, ma molto più ricco. Perché sto seminando, perché quell'euro diventa un seme seminato non per togliermi il senso di colpa, ma per darmi la gioia dell'essere parte di qualcosa. Ho chiarito questo? Stamattina il caffè che ho preso Stanno andando alla grande, grazie. Prendete il caffè al bar, perché non so quello che ci mettono, ma è buono. Quindi non ce lo chiederemo cosa ci mettono, perché comunque è buono. Ci sono tante attitudini sbagliate nel dare, vado verso la conclusione. Noi possiamo dare per essere visti. Anche questo viene dalla cultura cattolica. Anche questo viene dalla cultura ebraica. Dai perché ti devi rendere più famoso, più, poi se dai gli altri ti guardano. Diamo per dovere, diamo per metterci a posto la coscienza, diamo per ottenere dei benefici. Se diamo, il pastore mi abbraccerà in maniera più forte. Eh? Se diamo, Luciana mi metterà il posto migliore sull'autobus la prossima volta, perché questi sono tutti i motivi per cui non dobbiamo dare. La nostra Chiesa, solo noi, prendiamoci un po' di merito, la nostra Chiesa, da quando sono arrivata in Chiesa, ormai 25 anni, mi ha insegnato e ci insegna, ed è raro, ascoltiamo bene, non in tutte le chiese passano i contenitori per la decima in offerta. Non in tutte le chiese si crede che dare la decima faccia parte del vivere il corpo come chiesa. Per cui sentiamoci benedetti. E io l'ho chiamata la disciplina della generosità. La nostra chiesa ci insegna la disciplina della generosità. Infatti lo insegniamo al percorso 1, al percorso 2, al percorso 3, fino a quando morirai, nella nostra chiesa si parlerà della generosità. Come, quando e perché dare nella nostra chiesa? Ti riassumo il quando. Quando? Ogni domenica. Ogni domenica passano i contenitori, ogni domenica possiamo dare le nostre buste, ogni domenica possiamo dare per la missione, ogni domenica abbiamo la possibilità di crescere nella nostra generosità. Quando? Mensilmente. Mensilmente, come facciamo noi, possiamo dare la nostra decima tramite bonifico, tramite busta, come vogliamo. Quindi abbiamo una disciplina del dare settimanale, mensile, abbiamo una disciplina del dare una tantum. E questo è il nostro fantastico dono perché amo. Ora, so che noi sposiamo la visione. Chi ha donato a dono perché amo dell'anno scorso? E lo so perché sono nel team delle finanze. Non so chi ha donato. So che abbiamo donato a dono perché amo l'anno scorso perché sono nel team delle finanze. Cioè, quando hai messo il piede nella piscina del rifugio, lo sai che qualche centilitro di quell'acqua è tua? Quel pezzettino di legno che scricchiolava bollente quando mettevi i piedi sopra o in cui i miei figli stavano per arrampicarsi e spaccare, è mio. Perché, ve lo dico con orgoglio, noi doniamo a dono perché amo da quando dono perché amo è nato. Le sedie... Queste sedie, tu, volendo, scusa, te la puoi portare a casa una. Perché è tua. Giusto? Tu, non so, questa lampadina ti piace? Te la puoi portare a casa. Perché l'hai pagata tu, con dono perché amo. Oh, non svuotiamo la chiesa. Il pastore, te lo puoi portare a casa. Perché? E lo stai pagando. È piaciuta questa proposta, basta. Quindi, allora, facciamo così, facciamo una raccolta specifica per il pastore Giorgio. Non mangia neanche tanto, quindi se te li porti a casa, diciamo, è tutta una conquista, non ti fanno perdere niente, sono piccolini, entrano dappertutto, quindi ce li possiamo portare. La nostra chiesa ha una disciplina della generosità settimanale, mensile, con dono per chiamo. Come? La nostra chiesa ha una disciplina che è volontaria, tu non paghi una quota per venire. Non paghi un ticket d'ingresso per partecipare all'incontro. Fatemi dire una cosa brutta. Puoi essere qui da 40 anni e non aver donato neanche un euro. O puoi essere qui da 40 anni ed aver donato tutto quello che avevi. C'è comunque un posto per te in questa chiesa. C'è sempre. Certo, non ti puoi portare la sedia a casa, perché non l'hai pagata. Però puoi essere qui. Non sei costretto a pagare. Non devi sentirti costretto. Nessuno controlla le tue finanze. Cioè non è che nella tua banca c'è Luciana che va a vedere se hai pagato la decima. Poi te la vedi tu col Signore, che, voglio dire, sono fatti tuoi. Però nella nostra Chiesa è volontario, è il cuore. Noi non ci aspettiamo che tu doni perché hai. Noi ci aspettiamo che tu doni perché condividi quello che facciamo. Come, ancora come? Con impegno. Possiamo dare liberamente, possiamo dare volontariamente, settimanalmente, mensilmente, una volta ogni tanto, per occasione. Però prendi un impegno, perché l'impegno ci fa sognare perché l'impegno ci fa progettare. È per questo motivo che noi chiediamo di mettere le decime per chi vuole liberamente, con il nome e cognome. Perché? Perché sto dicendo tutti i segreti del team delle finanze, ma poi so che il pastore Pinuccio andrà molto più pesante stasera, quindi vado. Però lasciatemi dire che da team delle finanze noi non possiamo progettare nulla se non con la decima di tutti quanti noi, perché le offerte sono casuali, un giorno ci sono, un giorno non ci sono, ma il nostro darci con impegno ci fa progettare per bene le cose. Ancora, perché? Perché dare? Noi diamo per il sostegno dei ministri a tempo pieno. Tu dai per sostenere dei ministri a tempo pieno. E in questo momento abbiamo 3 ministri a tempo pieno nella nostra Chiesa. In realtà abbiamo una coppia a tempo pieno, ma ne paghiamo solo uno di ministro a tempo pieno, il che non è proprio buono. Quindi, Chiesa, impegniamoci di più, perché è una coppia a tempo pieno. Abbiamo Luigi come ministro a tempo pieno, abbiamo Luciana come ministro a tempo pieno. Questi sono i nostri 3 ministri a tempo pieno. Per questo ve li potete portare a casa. Quando volete, potete portarli a casa vostra. Ancora, abbiamo un sostegno per i nostri ragazzi e ragazze che scelgono, come Paolo, di andare a predicare il Vangelo in altre nazioni. E Chiesa, lasciatemi dire che noi dovremmo proprio benedire queste persone. Che l'unico problema che ragazzi che scelgono di andare in altre nazioni, di mettere la loro vita a rischio, l'unico non dovrebbe essere la questione finanziaria. Perché noi siamo qui, perché siamo in Puglia, perché non ci spara nessuno quando entriamo in una chiesa, perché viviamo in una cultura dove possiamo dire che Gesù è vivo, e queste persone scelgono di mettere tutta la loro vita sull'altare e non dovrebbero avere il problema delle finanze. Quando noi doniamo nella busta missione, noi sosteniamo tutti gli operai che partono. Noi sosteniamo per la vita di chiesa. Che cosa vuol dire? Le bollette, l'affitto, questo locale, la proprietaria di questo locale non si è ancora convertita. Preghiamo. Preghiamo ancora, che ce lo regali. Amen. Pochi amen. Non vi piace? Lo volete? Amen. Amen. Preghiamo che questo locale non costi più così tanto. Ma noi dobbiamo pagare questo locale, dobbiamo pagare le bollette, dobbiamo pagare le sedie, dobbiamo pagare l'acqua, dobbiamo pagare tutti gli strumenti, dobbiamo pagare le casse, tutto questo. Non c'è nessuno che ce lo regali, ce lo siamo comprati, per quello ti puoi portare qualsiasi cosa. Prendi una cassa e portatela, sparala sul balcone da stasera, così Antonio sarà felice di darti una cassa. Tutto quello che noi facciamo nella vita di chiesa lo sosteniamo dalle finanze. Ancora, sosteniamo progetti straordinari. Abbiamo fatto i battesimi quest'anno. Ah, che belli. Quanto abbiamo pianto, è vero? Chi è che è stato battezzato nell'acqua? Siete particolarmente benedetti perché era l'acqua del rifugio potabile, perché l'abbiamo resa anche potabile. Nicola, tu hai collaborato anche a fare la piscina qualche volta? E allora non sei benedetto. Quindi, chi ha collaborato anche a costruire la piscina è fortemente benedetto. No, Pastore Pinuccio, l'hai fatto un bagno nella piscina? No, solo nei battesimi. Ah, bene, quella te la puoi portare a casa tua, perché l'hai pagata tu e l'hai costruita tu. Ci sono stati tantissimi volontari, non sto parlando di una piscina, non ha cambiato niente una piscina. Però abbiamo una piscina rifugio. Abbiamo l'opportunità di benedire, anche noi possiamo andare e prendere un tempo di tregua. E tutto questo non può essere fatto attraverso le finanze canoniche, ma attraverso uno stile di vita generoso. Ora, Sara, che cosa vuoi oggi da noi? Non so neanche che tempo, perché non c'è neanche il tempo, posso andare avanti, quanto va? C'è 000 dall'inizio, quindi posso ancora andare avanti. Basta, tu vuoi cantare qualche altra cosa o posso andare avanti? Posso andare avanti? Vabbè. Riassumo un attimo i punti. Nessuna chiesa. Il dare e l'avere. Solo voi, ciò che mi occorreva. Ci voglio dare un attimo di tempo. Io questi versi proprio mi hanno... Ho detto, Signore, sto facendo quello che tu mi chiedi. Sono generosa come tu vuoi. Sono generosa almeno una parte come i filippesi lo sono stati. Io ci voglio chiedere un impegno oggi. Non voglio che tutto questo tempo cada nel vuoto. Io ti voglio chiedere, come c'è scritto alla fine degli appunti, di prendere un impegno per questa nuova stagione di Chiesa. Non deve essere necessariamente di soldi, un impegno di generosità. Fallo essere come il Signore ti ha parlato, come tu vuoi, come tu puoi, come il Signore ti sta parlando che devi esserlo. Forse devi dare un'ora al Signore per servire in Chiesa. Forse devi offrire la tua casa per fare i gruppi. Forse devi offrirti come capogruppo. Forse devi offrirti nella Servolution. Forse devi offrirti in qualche servizio. Forse devi cominciare a donare fedelmente la decima. Forse devi già prendere un impegno per la raccolta miracolosa che sarà a inizio dell'anno prossimo. Prendiamo un attimo di tempo. Vogliamo scrivere insieme in questo spazio sul foglio e poi pregheremo. Ognuno per se stesso, non copiare dalla persona che è accanto. È un impegno tuo ed è come il Signore te lo sta mostrando ora.